questa America che passa a chaval, che non ti aspetteravo che mira a tu alrededor, y dime lo que ves. Questo è sempre, questo è sempre. Questo è America che passa a chaval, che non ti aspetteravo che mira a tu alrededor, y dime lo que ves. Esto de siempre, esto de siempre. Ya te has acostumbrado, no me sorprende. Todo este cambio es parte del progreso. Acostumbrados.